L'altro pianeta di Laura Bettini. Eccoci qui, buon pomeriggio da Laura Bettini, ben arrivati all'altro pianeta, ovvero quello della sostenibilità, dello sviluppo intelligente, del rispetto per l'ambiente, insomma il nostro pianeta come solo in parte è, ma come potrebbe diventare. Inauguriamo questa trasmissione con un dilemma ormai molto diffuso: acqua del rubinetto o minerale in bottiglia? Voi che scegliete? Bevo anche quella del rubinetto, però siccome compro questa... Quella della bottiglietta. Faccio in vetro. Perché è vetro? No, perché mi piace proprio l'acqua. Bevi l'acqua del rubinetto o della bottiglia di plastica? Del rubinetto filtrata. Quando sono a casa e riesco a bere dalla bottiglia, meglio. Perché vivo in un comune dove ho saputo che l'acqua non è perfetta. Io bevo di plastica perché penso che sono più sicura, però anche un tanto anche la del rubinetto. Io prendo la del rubinetto, però la metto in la caraffa dove va a filtrare l'acqua e le bevo. No, non posso neanche spendere tanto soldi se non prendo il rubinetto. Io la plastica. Gli italiani che lasciano le acque minerali in bottiglia e scelgono quella del sindaco aumentano di poco. I consumi di acqua in bottiglia oscillano da anni tra i 193 e i 194 litri pro capite l'anno. Ettore Fortuna, presidente Mineracqua, Federazione delle Industrie delle Acque Minerali Naturali. Possiamo parlare di una certa stabilità pur in presenza di una situazione congiunturale non facile, no? Perché sul nostro settore hanno pesato tre fattori: la crisi economica che ha colpito alla fine, già dal 2009, ha iniziato a intaccare anche i consumi alimentari, una stagione assolutamente negativa per l'acqua minerale, non c'è stata primavera, no? E un terzo fattore è la crisi un po' della ristorazione in senso più generale, del turismo con tempi di permanenza più brevi, più veloci. Resta assolutamente invariato l'export, che resta sempre a 1 miliardo di litri. È vero, i consumi non calano di molto, come ammette Luca Martinelli, giornalista di Altra Economia, rivista che da anni promuove il consumo di acqua in rete. Però sta cambiando il dato culturale. C'è un lavoro costante di diffusione di cultura che promuove tra i cittadini italiani il ritorno al consumo dell'acqua di rubinetto. Penso all'ultima iniziativa in questo senso che è stata lanciata dalla società che gestisce l'acquedotto nella regione Basilicata, l'acquedotto Lucano. L'iniziativa si chiama Buona Questa ed è un'iniziativa sostanzialmente volta a invitare i cittadini lucani a consumare nei ristoranti l'acqua di rubinetto. E proprio agli esercizi pubblici era rivolta la campagna di Altra Economia Imbrocchiamola, che ha raccolto dati su 1800 locali italiani. Qui il dato significativo a nostro avviso è quello che vede una netta prevalenza dei ristoranti che offrono acqua di rubinetto a richiesta del cliente, sono 1400 su 1800. Ciò significa a nostro avviso che se il cittadino italiano torna ad aver fiducia nell'acqua di rubinetto e a volerla consumare anche nei locali pubblici e non solo nelle proprie case, il ristoratore mediamente dice di sì. Gli esercizi pubblici che autonomamente offrono acqua di rete non sono però una percentuale così alta. E nelle case abbiamo già detto come vanno le cose. Piuttosto, quelli che stanno cambiando fronte in massa sono gli amministratori comunali, sempre più inclini a proporre, soprattutto nelle scuole, la soluzione rubinetto. Perché è sostenibile, spiegano, per l'ambiente e per le tasche del comune. In Emilia, da marzo, ERA, gestore dei servizi idrici, ha firmato un patto con 200 sindaci. Loro promuovono l'acqua in rete. Lei garantisce alta qualità. Il sindaco di Imola, Daniele Manca, uno dei primi firmatari del patto. Intanto in tutte le scuole, in modo particolare su quelle dove è nostra la competenza, quindi parliamo di tutti i bambini in età dalle scuole materne alle elementari, 3-11 anni, si usa l'acqua del rubinetto. Si usano e si promuove la qualità dell'acqua in apposite caraffe colorate. Tutto questo ha sempre consentito di evitare nelle gare della mensa il costo del servizio dell'acqua, che inciderebbe sulla retta delle famiglie. E poi ha pure evitato cumuli di materiale plastico nei rifiuti, e questo producendo anche una corretta educazione ambientale. Nelle scuole e negli uffici comunali abbiamo prodotto questa innovazione. E tra l'altro un altro aggravio per le casse comunali sarebbe stato comunque lo smaltimento di tutto questo materiale. Quindi si producono economie importanti e dall'altra si promuove correttamente l'uso di una delle risorse naturali più importanti che appartiene a tutti i cittadini, che è l'acqua. Sull'onda di questa novella passione per l'acqua del rubinetto, proliferano in tutta la penisola le case dell'acqua, moderni chioschi dove rifornirsi gratuitamente di acqua di rete controllata e filtrata ad hoc, liscia o gassata. In Lombardia, a inventare ed esportare il modello sono state quattro società pubbliche, Cap Holding, Lanomi, TAM e TASM, che si accollano i costi di realizzazione perché, spiegano, è la nostra forma di pubblicità. Il presidente di Cap Holding, Alessandro Ramazzotti. Dal nostro censimento ne risultano attualmente più di 200, di cui però più di 150 sono in Lombardia, con le province di Brescia e di Milano che insieme ne sommano 120. E al comune dove le installiamo vengono caricati i costi della gestione, che quindi sono i costi della manutenzione, i costi del cambio delle bombole di CO2, eccetera, eccetera, eccetera. Per noi l'installazione è un'attività di promozione. Anche perché noi non abbiamo pubblicità sui giornali, no? Le ripeto, la bolletta già non arriva a tutti, il modo che abbiamo per far conoscere la qualità dell'acqua e del nostro lavoro è quello di installare delle case dell'acqua, quindi nel nostro budget, diciamo così, di promozione dell'attività aziendale ci sono anche le case dell'acqua. Mentre a Cap Holding ancora si festeggia la realizzazione della prima casa dell'acqua di Parigi, il futuro è roseo anche in Italia, se la giunta regionale lombarda darà seguito alle parole coi fatti. Di recente, infatti, è stato approvato un documento che invita la regione a prevedere un contributo che, attraverso un bando generale, aiuti la costruzione e la gestione di nuovi punti acqua sul territorio regionale. Sapete quanta strada deve fare l'acqua per arrivare a casa nostra? E pensare che hanno inventato una cosa chiamata tubi. Per inquinare meno bevo l'acqua del rubinetto. Oppure vado alla Coop, che si impegna a darci anche un'acqua minerale che arriva da fonti vicine. Adesso mi aggiungo. La Coop sei tu. La campagna di ottobre della Coop, intendendo l'ottobre scorso, aveva come testimonial Luciana Litizzetto. Acqua di casa mia si chiamava e nasceva per attirare l'attenzione di soci e clienti sulla notevole produzione di CO2 per imbottigliamento e trasporto su gomma dell'acqua minerale. Noi, spiegava Coop, ci siamo impegnati alleggerendo le nostre bottiglie di minerale e aumentando il numero delle fonti da cui ci approvvigioniamo per ridurre la lunghezza dei trasporti. E abbiamo avviato un confronto costruttivo con l'associazione e le industrie dell'acqua minerale di Marca. Sarà, ma di lì a poco, Mineracqua invase città e giornali con lo slogan «Acqua minerale, molto più che potabile». Pubblicità poi bocciata come ingannevole dal giurì della pubblicità. Ettore Fortuna. La motivazione non sono state ancora depositate, sa perché? Se posso permettermi una previsione un po' più così sociologica che tecnico-giuridica, no? Ma perché se le devono andare a cercare? Perché è una decisione politica, non mi pare una decisione tecnico-giuridica o di diritto pubblicitario, capisce? Per le pressioni o per convinzione, intanto, le aziende del settore stanno comunque intervenendo su trasporti e packaging. Sui trasporti c'è un dato per tutti. Noi trasportiamo per ferrovia il 15% della nostra produzione, no? La media nazionale del trasporto su ferrovia è 5-6%. Uno può dire si può aumentare il trasporto ferroviario? Sì, ma il trasporto non sono io il capo delle ferrovie, capisce? Sulla plastica invece il lavoro fatto negli ultimi anni si è concentrato sulla installazione di tecnologia che ci ha consentito di ridurre il peso delle bottiglie di plastica mantenendo inalterata la sicurezza della bottiglia stessa. Poi ad agosto è entrato in vigore un decreto del Ministro della Sanità che autorizza a utilizzare fino al 50% il PET riciclato nelle bottiglie di nuova fabbricazione. E questo si deve al lavoro che noi abbiamo fatto stipulando una convenzione di studio e di ricerca con l'Istituto Superiore di Sanità. Da qualche anno alla Sant'Anna di Vinadio hanno fatto anche di più, commercializzando la BioBattle, bottiglia di bioplastica Ingeo, ricavata dalle piante, e sono incappati in problemi insospettabili. Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato Fonti di Vinadio, Acqua Sant'Anna. Abbiamo dovuto occuparci di tutto, di tutta la filiera, dalla produzione della bottiglia allo stoccaggio al fine vita di questo tipo di prodotto. Chi non voleva questa bottiglia nella plastica, certi non lo volevano nel compostaggio, certi non lo volevano. Per cui, quindi quale sarebbe il fine vita giusto di questa bottiglia? Come produttore considero due tipi di fine vita. Uno, il primo fine vita in questo momento di inizio di diffusione della bottiglia è quella di metterla nell'umido per andare a finire nel compostaggio. È biodegradabile entro 90 giorni, per cui viene considerata compostabile. Un domani può essere riciclata chimicamente questo tipo di bottiglia e da una bottiglia di Sant'Anna Bio può rinascere una bottiglia di Sant'Anna Bio. E che ne dice Bertone, che ha scelto la via della sostenibilità delle tante campagne per l'acqua di rubinetto? Penso che siano due prodotti completamente diversi, che non hanno nulla a che vedere. Uno è un prodotto che può arrivare da qualsiasi tipo, può arrivare dai fiumi, per via Torino, dal Po. Noi invece prendiamo un prodotto così come nasce, viene imbottigliato senza nessun tipo di trattamento, che è completamente un altro tipo di prodotto. E d'accordo è Ramazzotti di Cap Holding. La nostra battaglia è che l'acqua di rete è buona e si può bere come l'altra, poi la gente scelga, a noi non ci importa, noi non è che facciamo campagne per vendere più acqua da rubinetto, guarda che l'acqua da bere è una parte infinitesima dell'acqua che distribuiamo, eh. Che l'acqua sia una merce e quindi business ormai lo sappiamo tutti. Da mesi si discute su come sia meglio gestire le reti idriche e da mercoledì sappiamo che in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimo voteremo per decidere se abrogare le leggi sulla privatizzazione dell'acqua. Ma ci sono anche business più piccoli ma pur sempre significativi, come quello delle case dell'acqua, che se per ora non fanno guadagnare granché, in futuro, con numeri più ampi, potrebbero dare buone soddisfazioni. Altro esempio. Io Bevo, azienda di Pontremoli, in provincia di Massa, ha un fatturato in crescita costante del 25% annuo. Ha ideato un sistema di erogatori di acqua e bibite gratuite per le mense. Il presidente di Io Bevo, Giovanni Varoli. Parlando di acqua, noi abbiamo introdotto e inventato e poi ampliato un servizio che si chiama Free Beverage, per eliminare nel settore grande ristorazione l'utilizzo di acqua confezionata e bevande confezionate. Consiste nell'installare quindi non soltanto il trattamento dell'acqua sostituendo le bottiglie d'acqua con l'acqua di rete trattata, ma nel sostituirla con un servizio che è la distribuzione libera, a consumo libero, di bevande gasate naturali oltre che dell'acqua trattata. Per voi che fornite queste apparecchiature c'è comunque un margine di guadagno? C'è un margine di guadagno, sì. Che è sulla statistica, cioè chiaramente sui grandi numeri. Talvolta però, ahimè, tra rubinetto e bottiglia non possiamo scegliere. Luca Martinelli, di Altra Economia. Si sapeva da anni che ci fossero nel Lazio, ma anche in altre regioni, penso alla Toscana, in pochi comuni della Lombardia, in qualche comune dell'Umbria, in qualche comune del Trentino Alto Adige, in qualche comune della Campania, situazioni in cui veniva diciamo erogata dalla rete acquedottistica dell'acqua che non rispettava i parametri del decreto legislativo 31 del 2001, che è quello che nel nostro paese regola la qualità dell'acqua. La Commissione europea ha rifiutato il rinnovo della deroga per poter servire acqua al di fuori dei parametri di legge, in particolare per quanto riguarda il parametro arsenico. La cosa a nostro avviso più grave che questa appunto decisione dell'Unione europea ci fa percepire è il fatto che da 6 anni a questa parte in questi comuni si stava erogando acqua non potabile e lo si stava facendo in forza di un accordo che attraverso il Ministero della Salute si era sottoscritto con l'Unione Europea, ovvero l'impegno a rientrare nei parametri di legge. I complottisti mormorano che si promuove il consumo di acqua del rubinetto per poi innalzare le tariffe. Per ora però non è accaduto nei comuni di cui abbiamo testimonianza. Le tariffe sono sì rincarate, ma altrove e per altre non sempre trasparenti ragioni. E voi che scegliete? qui all'altro pianeta, il pianeta che vorremmo, le porte sono anche sempre aperte per quei personaggi noti che per l'ambiente si impegnano, soffrono e sperano. Personaggi come Dacia Maraini, una tra le più conosciute scrittrici italiane. Proprio di acqua pubblica parla, tra l'altro, Dacia Maraini con la collega Cristina Carpinelli. La terra è la nostra, insomma, simbolicamente la nostra madre, da cui noi deriviamo, che, da cui nasciamo, da cui quando siamo morti torniamo, quindi è, simbolicamente è una parte molto, un punto di riferimento molto importante per noi. Però questa madre viene maltrattata, viene veramente trattata, non so, trascurata, violentata, picchiata, battuta, c'è di tutto contro questa povera madre terra. Lei vede, per esempio, ecco, tutta questa questione dell'acqua, no? Il fatto che si sta cementificando. Il nostro poi è un paese piccolo, non è che ha quelle risorse immense, il nostro è un paese piccolo. Questo paese piccolo, lei vede che si sta cementificando tutto, tanto a tal punto che non c'è più respiro per questa terra, non la facciamo respirare, proprio manca di respiro, per cui la terra, quando c'è il piove, la terra non ha più gli sfondi che aveva prima e va a finire nelle città, va a finire che inondazioni, fango, ma questo non è naturale. Ma quando noi pensiamo che questo derivi dalla natura, sbagliamo di grosso, che non è la natura che porta questo, che porta le alluvioni, i fanghi. Questi sono tutti risultati di una cattiva gestione della terra da parte dell'uomo. Sole alla valle, sole alla collina. Per le campagne non c'è più nessuno. Guardi, io uso i miei strumenti, che sono le parole, non è che non ho strumenti politici. Io il mio strumento di battaglia, diciamo così, per portare avanti delle idee sono le parole, sono gli scritti. Quindi io, attraverso gli scritti, attraverso i miei articoli, attraverso le mie prese di posizione, attraverso il teatro, cerco, il mio compito è di cercare di suscitare una consapevolezza di questi problemi, non di risolverli, perché non li posso risolvere, non ho gli strumenti in mano, non sono nel potere, per cui io non posso risolverli, però se riesco a suscitare da parte della gente comune, se riesco a creare una consapevolezza, beh, poi la consapevolezza della gente porta a una cultura diversa, una cultura di attenzione, di cura del territorio, che poi può, allora veramente qualcosa può venire fuori. E poi l'opinione pubblica influisce sulla politica. Ecco perché l'importanza dell'informazione. L'informazione, vuol dire giornalisti, scrittori, devono occuparsi di queste cose per farle sapere, perché il pubblico non le sa, crede che per esempio la questione dell'acqua sia così, che si apre il rubinetto e c'è l'acqua e quindi dice io l'acqua ce l'ho, e non capiscono che dietro c'è, l'acqua è in crisi, insomma c'è una diminuzione della accesso alle acque e in questo momento stanno cercando di privatizzare l'acqua, questa è una cosa gravissima, questo per esempio la gente non lo sa, perché non si può privatizzare l'acqua. Butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare, dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare, e lì si ferma a meditare. Per scegliere se essere ghiaccio o vapore, se fermarsi o se ricominciare. La Repubblica, dice l'articolo 9 della Costituzione italiana, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ecco, proprio così si intitola questa rubrica dell'altro pianeta che inauguriamo con piacere con la segnalazione di Marco Carminati di questa settimana. Buongiorno a tutti, abbiamo con noi in collegamento il professor Salvatore Settis, archeologo, storico dell'arte, che è stato direttore del Getty Institute a Los Angeles, è stato per molti anni il direttore della Normale di Pisa, oggi è alla Cattedra del Prado a Madrid e che da anni presidia davvero con un'attenzione e anche un amore particolare il territorio italiano, il patrimonio artistico, il patrimonio ambientale italiano. Voglio chiedere proprio a lui, buongiorno professore. Buongiorno. Ecco, qual è un luogo particolare della nostra bella Italia che rifulge di bellezza ma è contemporaneamente anche in pericolo? Ma io sceglierei il Golfo di Baratti, sotto Populonia, di fronte all'Isola d'Elba, in un paesaggio incantevole della Maremma toscana, un luogo che è stato minacciato molto pesantemente negli anni 60 di lottizzazione che fu allora evitata da un consorzio dei comuni della Val di Cornia e che è diventato quindi tutto questo comprensorio è diventata una delle zone più protette, dove fra le altre cose c'è un consorzio che si chiama Parchi Val di Cornia, che è l'unico organizzazione di questo tipo che è inattivo, perché gestisce vari musei, gestisce parchi, gestisce anche parcheggi. Ora, purtroppo, dopo anni di idillio fra la natura, la cultura, la storia, l'archeologia e il cittadino, in questo momento proprio gli stessi comuni, a cominciare da quello di Piombino, che avevano protetto la natura lì, minacciano di costruire, trasformare antichi casolari in alberghi, metterci parcheggi, piscine e così via. Cioè il Golfo di Baratti, uno dei luoghi più intatti delle coste italiane, oggi è a rischio. Ecco, lei su questo tema e su queste riflessioni ha scritto un libro di recente accorato, un libro pieno di indignazione, di tristezza, ma anche di informazione. È il libro che si intitola Paesaggio, Costituzione, Cemento, la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile, edito da Einaudi. Ecco, lei che messaggio ci lancia? Io vorrei ricordare due messaggi che ho cercato di veicolare in questo libro. Il primo è che è giusto indignarsi e che l'indignazione è una virtù. Ho citato un bellissimo passo di Seneca, il quale dice: è capace di indignazione solo chi è capace di speranza. Non è vero che chi si indigna è soltanto uno che tende ad essere incavolato per sempre perché è di cattivo carattere, è vero il contrario, è vero che per poter sperare bisogna indignarsi delle cose brutte che noi riscontriamo intorno a noi, e questo vuol dire che speriamo in un mondo migliore. Quindi la denuncia ha senso. Questo è il primo punto. Il secondo messaggio importante che vorrei ricordare qui è che non basta l'indignazione e non basta denunciare le brutture come quella di cui parlavo prima a proposito di Baratti, ma bisogna analizzare il perché. Allora, io in questo libro ho tentato, perciò c'è la parola Costituzione nel titolo, ho tentato di gettare un ponte fra la cultura giuridica, la cultura storica, la cultura civile e quella storico-artistica, e di ragionare sul perché è possibile, su come mai è possibile che l'Italia, che ha nella Costituzione la tutela del paesaggio, è il primo paese al mondo che l'ha messo fra i principi fondamentali dello Stato, la tutela del paesaggio, l'Italia che ha un sistema di leggi che è assolutamente perfetto sulla carta, poi in realtà è in questo momento il paese che più viola le proprie stesse leggi. E credo che questo sia necessaria un'analisi, l'analisi che ho proposto in questo libro, non posso certo riassumerla qui, però vorrei ricordare il punto essenziale. Non è tanto e non è solo la speculazione privata che combatte, che lotta contro il paesaggio, che assalta il nostro paesaggio, ma è la lotta fra poteri pubblici, è il fuoco amico fra Stato e Regioni, è l'incoerenza di norme nazionali e norme regionali, l'incoerenza anche di queste norme con i piani regolatori dei comuni. Se non si mette mano a questa situazione molto preoccupante, il degrado del nostro paesaggio continuerà e quello che fu il bel paese non sarà più degno di questo nome molto molto presto. Bene, professore, leggeremo attentamente questo libro perché dalle sue parole si capisce che si tratta davvero di un'opera importante e fondamentale per capire perché stiamo andando verso questa direzione. E intanto consigliamo a tutti gli ascoltatori, se si trovano vicini oppure di andarci, di andare a vedere il bellissimo comprensorio, il bellissimo Golfo di Parati e le campagne che, seppur in pericolo, ancora oggi si possono ammirare in tutto il suo splendore. Grazie, professore, e buona giornata. Grazie a lei. Grazie a tutti voi per l'ascolto e grazie a tutti coloro che credono nella possibilità di fare di questa Terra un altro pianeta. Per scrivermi vi ricordo laura.bettini@radio24.it. Per riascoltarci c'è l'archivio dei programmi di Radio 24. Adesso la linea a 2024 e appuntamento alla prossima settimana.